passiamo un attimo dalla bollicina al tuo rosso invece. Ecco. Raccontaci un po' brevemente com'è. Ma, noi non abbiamo, diciamo, regole fisse né principi, linee di principio, per cui se un'annata permette una fermentazione naturale, noi facciamo una fermentazione. Questo è un vino a fermentazione naturale. Se un'annata non lo permette, noi utilizziamo lieviti selezionati, come diceva lui. Questo, per esempio, è un vino che ha ricevuto la prima solforosa 2 anni dopo che è stato fatto, cioè lui ha avuto ad agosto del 2010, è un 2008, ad agosto del 2010 la prima solforosa, che è stata poi la penultima perché è stato messo in bottiglia 2 mesi dopo, quindi questo vino ha ricevuto 4 mg litro di metabisolfito, tutto là, in 2 volte separate. L'abbiamo messo perché, siccome è un vino che viaggia poi, perché può capitare che vada in America o che vada in Giappone, noi non vogliamo che i nostri clienti rischino di trovarsi un vino che puzza, perché il Sangiovese è un vino che volentierissimo puzza. E quindi questo è un vino invece che ha avuto, non è stato filtrato, come ho detto prima, eccetera. Diciamo però che una delle caratteristiche dei vostri vini, e poi anche sicuramente dei vostri, è molto importante, che va al di là di ogni tecnologia, è il tempo. Sì, no, noi non mettiamo mai un vino fuori prima di 2 anni nel modo più assoluto. I più semplici, ma proprio se l'annata lo permette, vengono fuori dopo 2 anni. Il 2007, che vino semplice non era, è venuto fuori dopo 5 anni come un Brunello, ma senza i prezzi del Brunello. Ma che cosa serve tutto questo tempo, Paola? Serve per maturare i tannini, i polifenoli, perché i nostri vini hanno una quantità di polifenoli spaventosa, che chiaramente vengono sostenuti con questi tannini naturali, loro, cioè la qualità delle uve, che vengono anche estratti nella fermentazione, perché pur essendo una fermentazione molto calma, noi non arriviamo mai oltre i 28 gradi in fermentazione di temperatura del vino, quindi non facciamo una tumultuosa chissà come, però nonostante questo abbiamo una quantità di tannini e di polifenoli e una struttura del vino così poderosa che vini senza, abbiamo qui presente il 97. Il 97 è un vino assolutamente senza solfiti ed è un vino che a tutt'oggi, se viene degustato senza dire che cos'è, ci sentiamo dire, ma questo ha bisogno ancora di un po' di tempo per maturare. È un vino che ha 15 anni. Ma cioè sono vini che si reggono sulla loro struttura, sono vini mai, diciamo, né manipolati né... vengono tenuti puliti. Ecco, l'unica regola della nostra cantina è tenere i vini puliti, punto. Quindi continui travasi perlomeno 2 o 3 volte l'anno. Una cosa rispetto al rame che tu dicevi, siccome avevo sentito questa storia del rame, ma come, voi usate il rame, poi si trova io non ho chiesto all'enologo se il rame poi arrivava fino ad essere nel vino. Ho chiappato il vino punto del 97, l'ho mollato alla ASL perché erano venuti a fare un controllo sulle mele in cantina. Per togliermi ogni dubbio, gli ho mollato le bottiglie e gli ho detto: per cortesia, mi faccia... Hai ragione tu. Dell'ASL sicuramente. Hai ragione te. Cioè, forse mi pare un sano. Comunque loro hanno fatto delle analisi legali, hanno fatto un campionamento legale e naturalmente non c'era nessun residuo di rame. Dopodiché l'enologo ci ha detto: bastava che lo chiedeste a noi, perché il rame decade come tartrati, cioè quando quindi, tu fai i travasi, le fecce che ci sono contengono anche. È evidente che questo discorso di togliere il rame dai trattamenti risponde esattamente, come diceva lui, all'esigenza di promuovere qualche altro prodotto, ecco.